Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Ben ritrovati con l'appuntamento quotidiano con la grande attualità internazionale qui su Radio 24 in diretta anche quest'oggi. I saluti vi arrivano anche da Mire Lucchetti, Isotta Scenna, che sono in redazione a confezionare con me queste puntate, Gianmarco Ferronato, che gli darà la musica giusta. Anche quest'oggi è d'obbligo partire con l'Egitto, la domanda chiave che in tanti analisti e osservatori si fanno: insomma, restaurazione è fatta? E soprattutto, che fine ha fatto Piazza Tahrir? Quel gennaio 2011 sembra veramente così distante in queste ore, ed è la domanda che giro anche a voi, cari ascoltatori. 349-238-6666 se volete intervenire via SMS. Facebook, la pagina è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Infine twittate a Nessun Luogo 24, le mail Nessun Luogo chiocciola radio24.it. Allora, come detto, partiamo dall'Egitto. The spiritual leader of the Muslim Brotherhood, Mohammed Badi, has been arrested in Cairo. He was reportedly detained at a residential flat in Nasser City in the northeast of the capital. I think it is a significant blow to the Muslim Brotherhood, but it's also a significant coup for the authorities here. They've been trying to find Mohammed Badi for some weeks now. There's been an arrest warrant out for him since July 3rd. Now it seems he was tracked down and arrested. E come avete sentito anche dal GR, l'ultimo atto, l'ultimo in senso cronologico, perché ce ne dobbiamo aspettare tanti altri in questa crisi egiziana, l'arresto della guida spirituale dei fratelli musulmani Mohammed Badi. Intanto le agenzie battono la notizia relativa alla sorte giudiziaria di Mubarak. I giudici della corte si recheranno domani a Torà, dove l'ex reis è detenuto a causa delle difficoltà di trasferire il prigioniero al Cairo per motivi di sicurezza, come potete immaginare. Se la corte accoglierà il ricorso, Mubarak potrebbe essere scarcerato su cauzione, in quanto ha già restituito i soldi ottenuti a suo tempo dal direttore di Al-Aram, era quell'accusa di corruzione sui media. Rimane in piedi l'accusa di aver ordinato l'uccisione di manifestanti nelle rivolte del 2011, ma quel processo deve ancora dispiegarsi. Allora, cerchiamo di capire meglio, cerchiamo di mettere dei punti fermi, se casomai fosse possibile. Buongiorno e benvenuta a Nessun Luogo Lontano, nuovamente ben ritrovata. Paola Caridi, Invisible Arabs, Lettera 22. Paola, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, dicevo a inizio trasmissione, restaurazione è fatta? In parte, sembrerebbe così. Quello che però, secondo me, bisogna sottolineare è cosa significa questa strategia, ovvero sia l'arresto di Mohammed Badi, l'ultima guida spirituale della fratellanza musulmana, non il capo di un partito, ma il capo di un movimento socio-religioso. Questo tipo di strategia è già stata usata, per esempio, da Israele nei confronti di Hamas, che è l'espressione politica della fratellanza musulmana palestinese. È riuscita? No, la risposta secca è no, nel senso che arrestare la guida spirituale di un movimento così complesso e di massa come è la fratellanza musulmana, sia in Egitto, dove è nata, sia negli altri paesi arabi, non vuol dire tagliare la testa del serpente. È stato fatto per esempio da Israele nei confronti di Hamas, uccidendo la guida spirituale, in quel caso Sheikh Ahmed Yassin, o uccidendo negli omicidi mirati buona parte dei leader, sia politici, non solo dell'ala armata. Questo non ha distrutto il consenso nei confronti di Hamas, che infatti dopo l'uccisione della guida spirituale vinse per esempio le elezioni politiche del 2006. Sì. E questo bisogna considerare quando si parla di fratellanza musulmana egiziana, tant'è che uno dei leader, Mahmoud Ezzat, ha detto, appena hanno arrestato Badi, lui è un esponente dei fratelli musulmani, non è la fratellanza musulmana. È proprio in questo nodo, secondo me, la strategia miope, veramente miope, dei militari egiziani. Tra l'altro, allora, al 349-238-6666 alcuni messaggi, uno dice: smettetela di difendere i fratelli musulmani, nessuno li sta difendendo, cerchiamo di raccontare quello che sta accadendo e cerchiamo di offrire agli ascoltatori chiavi di lettura per capire meglio quali possono essere gli sviluppi. E allo stesso modo che si potrebbe dire smettiamola di difendere i militari in Egitto, nel senso che se bisogna guardare una realtà in maniera complessa, beh, allora guardiamola in maniera complessa. C'è un presidente deposto, e deposto in un modo, come dire, che andrà ancora indagato dagli storici, un presidente che ha fatto una politica altrettanto miope come è stato Mohamed Morsi, nel senso che ha occupato il potere assieme alla Fratellanza Musulmana senza condividere il potere. Allo stesso modo anche i militari egiziani, beh, insomma, hanno ammazzato almeno 900 persone negli scorsi giorni. Sì, e questo è innegabile. Sul modo di muoversi dei militari in Egitto in questi ultimi due anni, sono militari, l'abbiamo detto più volte in questa trasmissione, quindi forse manca loro, come dire, un certo tatticismo politico, anche una certa morbidezza nella comunicazione, per non parlare poi, insomma, della gestione della piazza, sulla quale, ripeto, c'è ancora tanta confusione. Anche chi era sul campo ha faticato, perché il fotografo è lì e vede un pezzettino di quello che accade, non è facile, anche stando lì, riportare appunto la realtà. Dovrà fare i conti però questo esercito, le forze militari egiziane dovranno fare i conti anche con un modo di muoversi forse differente, perché loro sono i baluardi, no, della Costituzione, dicono siamo qua a preservarla, però hanno questo comportamento, siamo degli elefanti in un negozio di cristalli, non hanno certamente, no, quell'abilità, quella morbidezza politica che forse ci si aspetterebbe. Hanno sia l'uno sia l'altro. Da una parte, guardando quello che è successo negli ultimi giorni, possiamo dire sono degli elefanti in un negozio di cristalleria. Dall'altra, se si guarda invece con un po' più di prospettiva storica, quindi se si guarda gli ultimi due anni, hanno avuto un'intelligenza politica insospettabile, nel senso che loro hanno detto a Mubarak di dimettersi. Loro hanno assunto la guida della transizione egiziana alla democrazia, loro hanno colto il momento giusto dell'insoddisfazione popolare con le manifestazioni del 30 giugno e forse 22 milioni di egiziani nelle piazze, forse di meno, chissà, ma comunque loro hanno colto l'insoddisfazione popolare e, come dire, l'hanno cavalcata veramente come si cavalca l'onda di una tempesta. Quindi secondo me c'è nella strategia dei militari egiziani sia l'una cosa sia l'altra. L'ultimo punto che volevo toccare con te, Paola, è accennavi alla complessità di quello che sta accadendo in Egitto, ed è forse molto riduttivo dividere, no, la popolazione in pro-Morsi e anti-Morsi. Ci sono tante dinamiche dentro, no? Cioè, è molto più complessa di come viene... È molto più complessa, e se si legge quello che scrivono i veri ragazzi Tahrir, cioè quelli che hanno fatto la rivoluzione nelle piazze del gennaio-febbraio 2011, ecco, loro sono i primi a dire non stiamo né con Morsi né con i militari né con i fratelli musulmani né con l'esercito. La terza via, noi sappiamo, nella storia è sempre stata ahimè minoritaria, eppure io lo ripeto da tempo, sono loro poi il futuro dell'Egitto, non fosse altro per questioni anagrafiche, sono giovani, quindi non è detto che questa storia, questa battaglia fra gerontocrazie, perché questo sta anche succedendo, cioè il vecchio sistema rappresentato dai militari, adesso sono più giovani rispetto a quelli precedenti, e l'altro sistema, l'antisistema ai tempi di Mubarak, cioè la Fratellanza Musulmana, è rappresentata soprattutto da gente in età avanzata o di mezza età. Bisognerà capire cosa questi giovani faranno quando questo sistema, morirà anche per questioni anagrafiche, perché a un certo punto la vita ha termine. Ecco, allora bisognerà capire se questa terza piazza che esiste, e che è quella che peraltro ha documentato le uccisioni di Rabah al-Adawiyya, ecco, cosa proporrà e cosa riuscirà a fare questa terza piazza in termini di programma politico, in termini di leadership, in termini di investimento politico nel futuro. Al 349-238-6666 altri messaggi, c'è chi scrive: quello che non capisco è perché chi manifesta in Egitto debba uccidere decine e centinaia di persone che non hanno le loro idee integraliste e distruggono decine di chiese cristiane e nessuno dice nulla, sempre informazione faziosa e cristianofobica. Spero non si riferisca a me nella fattispecie, fra l'altro poi sentiremo anche un'intervista a un vescovo cattolico da Giza che dirà la sua su quello che sta accadendo. E poi l'ascoltatore di prima che ribatte: no, non è la stessa cosa, i militari non massacrano i cristiani, giornalisti no, relativisti anticristiani fate schifo. Così conclude il nostro ascoltatore. Non è relativismo. Peraltro leggevo con attenzione, se andate su Al Jazeera, sul loro sito, c'è un interessante approfondimento sulla difficoltà dei giornalisti occidentali di andare a comprendere e leggere quello che sta accadendo, e tante critiche si sono beccati dagli egiziani sul campo. Alcuni poi sono stati anche attaccati e malmenati. Tutto questo per dire che quello che sta accadendo in Egitto non è assolutamente di facile lettura. Paola Caridi, ti lascio al tuo lavoro, ti ringrazio per essere stata con noi, però in chiusura ti chiedo, come al solito, una previsione e magari lasciaci con una luce di ottimismo, perché a leggere i tuoi post Devo ribattere all'ascoltatore, sì, perché volentieri. I militari sono accusati di aver ucciso almeno 30 cristiani. Allora, nel novembre-ottobre del 2011, uno si chiamava Mina Daniel e non aveva detto di essere cristiano quando stava a Piazza Tahrir, perché era una piazza inclusiva. I militari sono accusati di aver ucciso dei cristiani, quindi cerchiamo di guardare alla storia e non alla propaganda, cerchiamo di guardare veramente alla complessità dell'Egitto. E sul futuro... Non so se ti ricordi, insomma, qualche tempo fa quando ci siamo sentiti, che non ero poi così ottimista sul Medio Oriente. Ho paura, sì, di non esserlo nemmeno adesso, perché il problema è il riconoscimento reciproco. Proprio questa questione di distinguere gli egiziani fra cristiani e musulmani, non pensare alle moschee che sono state bruciate, fa sì che questo rischi di diventare una guerra civile. Il problema è il riconoscimento reciproco e la legittimazione reciproca, altrimenti non si va da nessuna parte. Se scoppia una guerra civile in Egitto, pagheremo tutti le spese di quel dramma, tutti quanti, non solo gli egiziani, tutto il Mediterraneo. E ovviamente noi tutti si spera che questo non avvenga. Grazie Paola Caridi per essere stata con noi, buona giornata e buon lavoro. Buon lavoro a voi, grazie. Allora, tra pochissimo c'è l'informazione finanziaria, poi però vorrei rispondere a questi messaggi, questi sms che con tanto livore mi accusano di relativismo, di fare informazione faziosa. Guardate, mi faccio le stesse domande che vi fate voi, il tentativo è di cercare di comprendere. L'ultimo anno sono stato al Cairo parecchie volte, l'ultima volta è stata primavera, poi ovviamente adesso sono qua in studio e non ci posso andare, ma il tentativo è di sentire più voci possibili, di tentare di entrare in questa vicenda che è complessa. Non prendo le parti, non prendo nessuna parte, ho la stessa sete di informazione che mi auguro abbiate voi. Nessun luogo è lontano. La complessa situazione egiziana in questa prima pagina di Nessun Luogo Lontano, che abbiamo capito non si può ridurre in pro morsi e anti morsi, sono tanti i fattori in campo. Quello dell'elemento cristiano, i cristiani copti, tanti ve ne sono in Egitto, è uno di questi fattori. Allora, abbiamo raggiunto il vescovo di Giza, copto cattolico, Monsignor Antonius Aziz Mina, e ho chiesto innanzitutto un commento riguardo l'arresto recentissimo della guida spirituale dei Fratelli Musulmani. Ascoltiamo. Ci sono delle accuse anche contro lui. Delle accuse di spaccatura del paese, di incitare alla violenza, di mandare gruppi. Lui e tutte le sue dichiarazioni, gli ultimi giorni, le ultime settimane, anche prima, incoraggiavano i gruppi armati a far disordine in Egitto, e abbiamo visto il risultato. Metà d'Egitto bruciava e la popolazione stava così, non sapeva come reagire. Gente inerme. Abbiamo visto giovani armati tramite quelli che non hanno arma e nelle manifestazioni che sparavano contro i balconi e le finestre delle normali abitazioni. La cosa veramente non vista prima, una violenza tremenda che sconvolge tutto il paese, da Alessandria fino a Aswan. C'è chi parla di restaurazione, c'è chi dice siamo tornati indietro in Egitto a prima di Piazza Tahrir. È d'accordo da questo punto di vista? Al contrario, noi stiamo andando avanti con passi lenti perché la polizia sta veramente mantenendo la calma, reagendo nella misura. Se volevano usare la violenza come sono accusati adesso, avrebbero sterminato tutti questi gruppi armati. Invece no, fanno a misura, se vedono qualcuno che resiste poi se ne va a casa, loro non lo toccano neanche. Si è verificato nella manifestazione di Midan El Nada a Gize, non c'è stato nemmeno un ferito. Ma quando sono andati alla Maradoia per dire a questi manifestanti di ritornare a casa, basta così, sono stati sorpresi di colpi di arma che partivano da questi manifestanti contro la polizia e sono stati uccisi all'inizio due. Perciò la polizia ha dovuto usare la forza per evacuare queste manifestazioni. Quindi io vedo che stiamo andando avanti per realizzare veramente la democrazia richiesta dalla rivoluzione del 25 gennaio, ribadita nella rivoluzione del 30 di giugno. L'esercito non ha fatto altro che realizzare il volere del popolo, che non è armato contro queste fazioni che sono armati e vogliono governare il paese con ferro e fuoco. Hanno avuto il governo per un anno e si sono verificati veramente che non hanno la capacità di governare, hanno messo tutti contro di loro, i giudici, la polizia, il Ministero dell'Interno, il Ministero degli Esteri, la Chiesa, l'Azhar, tutto il popolo, non hanno guadagnato nessuno. Hanno fatto un anno di governo solo per la Jamaa, solo per il Muslimin, solo per questa fraternità che non cerca nessun interesse del paese, non gli importa per niente questo paese, gli importa un'idea che non tiene in questo mondo né in cielo né in terra di un califato del Medioevo che parte dal Marocco fino alla Turchia, senza badare agli interessi di ogni paese, che oggi siamo un mondo civile, mica possiamo ritornare al tempo di Jahili, al tempo del Medioevo. Non c'è stato un eccesso di violenza, secondo lei, da parte delle... Da chi? Da parte di chi? Da parte della polizia, soprattutto nei primi giorni. E questi caduti della polizia, chi li ha uccisi? Facciamo un sol poliziotto che è stato ucciso con arma da fuoco. Ditemi, qual paese può accettare che i manifestanti, i militanti possono tirare contro un poliziotto arma da fuoco senza reagire, senza usare la violenza? Ditemi, lei me lo dica. È chiarissimo. Non è stato un solo che è caduto, sono caduti più di 50. Ieri soltanto abbiamo 25 soldati, 25 dell'esercito che sono stati ammazzati a sangue freddo, sono fatti scesi dal mezzo che li portava, legati mani e piedi, buttati per terra faccia a terra e poi così in questo stato uccisi con arma da fuoco, con una mitraglietta, non è un colpo di pistola, ma con una mitraglietta sono stati uccisi. Come vuole che noi reagissimo? Come può un paese accettare una situazione del genere? Però lì si trattava di un'altra regione, eravamo in Sinai. E Sinai è un'altra regione, non è più l'Egitto? No, sì, per carità, però non è il Cairo e non era una manifestazione pacifica. Ma loro vanno dappertutto, adesso hanno lasciato Cairo, sono andati nei villaggi, perché i villaggi sono meno controllati, la polizia non può controllare un milione di metri quadrati. Loro vanno dove manca la polizia per reagire come vogliono. È chiarissimo. Non teme una dittatura militare? Non teme un eccesso di potere da parte dei militari? L'hanno dichiarato decine di volte, non vogliono l'autorità, hanno messo un giudice ad interim, presidenti, dei giudici della Corte Suprema, finché si fanno le elezioni, quando si fanno le elezioni hanno dichiarato che non si presentano, le forze armate non si presentano. In ogni modo, voi come cristiani vi sentite tutelati da questo governo transitorio? E io non parlo adesso di cristiani, parlo di egiziani, veramente non si sente una differenza tra un cristiano e un musulmano in queste circostanze dolorose. Non si sente. Noi siamo un popolo compatto contro una fazione armata, li invitiamo e ancora ripetiamo l'invito, se vogliono deporre le armi e giocare politica, che siano il benvenuto, ma se continuano così non possiamo accettare questa paura, questo timore, questa vita violenta, non è la vita di un paese, non possiamo progredire neanche di un passo. Questa era la testimonianza del vescovo di Giza. Rispondo a un ascoltatore che mi dice: non ci sono copti cattolici, i copti sono cristiani ortodossi. In realtà è il patriarcato di Alessandria dei copti, è la sede patriarcale della chiesa cattolica copta, da cui dipende poi la diocesi di Giza, il cui patriarca è Ibrahim Isaac Sidrak. E poi altri messaggi al 349-238-6666. C'è chi dice, come Mario da Parma: credo che la posta in gioco in Egitto vada oltre il locale, tra virgolette. È una lotta contro il nuovo male assoluto, sempre tra virgolette, che è la deriva del fanatismo islamista, come oltre 70 anni fa in Europa. Che la posta in gioco in Egitto non si richiude nell'Egitto stesso, questo è evidentissimo, lo diceva anche il vice ministro degli esteri ai nostri microfoni, Marta Sul, lo dicono tutti gli analisti. Vedremo nei prossimi giorni come evolverà questa crisi in Egitto. Adesso volto pagina, e questa seconda pagina di Nessun Luogo è Lontano è tutta dedicata a un racconto fatto di parole e ferro. Sì, perché suona quasi un ossimoro, no? Versi e bulloni, parole e ferro. È una storia fatta di martellate e anche di poesia. La storia di un afghano che forgia e modella acciaio e parole. Vi porto a Khost, in Afghanistan, provincia orientale al confine col Pakistan. Demran Khan, khreli khulaw de jihad pitwa, ma trayat si Sheikh Chali aw de mirdat pitwa. Demran Khan, khreli khulaw de jihad pitwa. ما ترایت سی شیخ چلی او د مرداد پیتوا نو د سرکی بوتل د ادمګری او مفتی کله شوی فضل الرحمن نصیر الله او اشرف کله. La voce che sentite è quella di Matiullah Turab, che è un meccanico, di origine pashtun. Si guadagna da vivere a Khost, proprio riparando quei variopinti camion commerciali pakistani. Forse li avete visti in qualche foto, sono dei giganteschi tir completamente decorati a mano con colori incredibilmente vivaci. E questo Matiullah Turab, tra un motore che non parte, che sbuffa fumo, e un parafango ammaccato che deve riparare, deve riforgiare a mano, cosa fa? Compone versi. Non scrive però di fiori, amore e quant'altro e altre amenità, racconta lui, piuttosto descrive l'Afghanistan di oggi, la sua politica e la profonda disillusione di tanti afghani. Alfieri di tutto il mondo, ci avete afflitto nel nome della sicurezza. Invocate pace e sicurezza, ma distribuite pistole e proiettili. E qui abbiamo dovuto fare un doppio salto mortale, perché la storia è stata raccontata da Azam Ahmed, reporter del New York Times, che grazie a una filologa afghana ha tradotto dal Pashtun all'inglese questi versi, e Miria Lucchetti ha fatto un altro lavoro filologico e dall'inglese ha tradotto all'italiano, e l'interpretazione della nostra Alessandra De Luca. Allora, diceva Zam Ahmed, reporter del New York Times, lui ha fatto questa storia, ha realizzato questa storia molto bella a Khost. Siamo nella provincia orientale, al confine col Pakistan. È una zona che anche fino a pochi mesi fa era piuttosto calda, perché lì è una zona dove vi sono parecchi insorti. Ho chiacchierato pochi minuti fa proprio con Ahmed del New York Times, a cui ho chiesto di ricapitolare la storia incredibile di questo poeta meccanico. Ascoltiamolo. Well, you know, he's a metalsmith sort of mechanic by trade and has been in Afghanistan, I guess. E Ahmed racconta come Matullah Turab fa il meccanico di mestiere, è arrivato in Afghanistan con i rifugiati dal Pakistan circa 20 anni fa. La sua caratteristica principale, racconta il reporter, è riuscire a raccontare in modo influente e coinciso la vita vera, lo stato delle cose dall'Afghanistan odierno. It's just an odd quirk of this country that you know they can manufacture a poet who's semi-illiterate. Non è propriamente un poeta, dice. Lui è praticamente un illetterato, quasi un analfabeta, che però riesce a descrivere la realtà e a comunicarla alle masse in un modo davvero poetico. Fixing cars and continued to produce poetry. E dice, ha imparato a fare il meccanico in Pakistan e quando si è trasferito a Khost ha continuato ovviamente a aggiustare macchine e però anche a comporre poesie. The state of affairs in Afghanistan. So often when you talk to people here, you talk to government officials. La prima volta che l'ho incontrato, dice, non mi è sembrato un uomo bloccato dalla paura, nonostante abbia avuto problemi dopo la pubblicazione del suo libro. È una persona molto libera che dice candidamente la verità sullo stato delle cose in Afghanistan. Molto spesso, ricorda il reporter del New York Times, quando parli con le persone qui, con i rappresentanti del governo o quelli delle forze occidentali, vieni ingannato. Sono persone che ti dicono quello che vogliono farti credere, non quello che pensano veramente. Matullah invece è una persona molto schietta e onesta, che dice quello che pensa. È qualcosa di irresistibile vederlo lavorare durante i suoi incontri pubblici e vederlo recitare il suo punto di vista dell'Afghanistan in modo così articolato e convincente. Western officials and you get spun. People will tell you what they want you to believe. They won't tell you what they honestly think. I found meeting him remarkably refreshing because he was just honest. He was very candid about what he thought and his observations. Fosse di teschi e oppressione. Squassate questa terra e venite fuori. Mi deridono con il vostro sangue, mentre voi giacete, avvelenati da promesse di vergini. I versi di Matullah Turab, poeta Pashtun che fa anche il meccanico e si guadagna da vivere in quel modo, ed è molto molto popolare in Afghanistan. È stato invitato anche più di una volta al palazzo presidenziale a Kabul dal presidente Karzai, anche recentemente, e anche se è molto critico verso i politici. Un aneddoto molto divertente che racconta Ahmed, e lo riporta nel suo pezzo, è che dice i politici pensano solo al loro profitto, alle loro tasche. E a proposito di tasche, dice, gli afghani, i politici afghani dovrebbero farsi delle giacche apposta con tre tasche. In una ci mettono la valuta afghana, in un'altra i dollari, quelli americani, e in un'altra le rupie pakistane. Nessun luogo è lontano. Il poeta meccanico, quella voce Pashtun che si leva dalla regione di Khost, una voce critica un po' verso tutti, devo dire che Turab se la prende, non le manda a dire, con la presenza statunitense, con gli occidentali, ma anche con i talebani, persino con il presidente Karzai, anche se apprezza l'arrivo di strade, ad esempio, di elettricità. Però lui conclude con un pensiero, dice che alla fine la democrazia, quella esportata dall'Occidente, non è la giusta medicina per la società malata afghana. Dice, la democrazia ucciderà le nostre leggi tribali. Ho chiesto al reporter che l'ha incontrato, che è stato con lui alcuni giorni, a Zam Ahmed, qual è la visione dell'Afghanistan di questo poeta meccano. I think he's hopeful. I mean, he's not all negative about what's happening in. Dice, alla fine io penso che sia speranzoso in fondo, non è del tutto negativo su quanto accade. Sa perfettamente che le cose non stanno andando per il meglio nel suo paese. non crede che il paese sia nelle stesse condizioni del periodo in cui c'era il regime talebano. Lui pensa che la coalizione occidentale debba ancora rimanere, ma non dovrebbe dare soldi ai politici che non hanno il sostegno del popolo, ed è preoccupato per la direzione che il suo paese sta prendendo. Things don't go well, he's a little bit worried about what the country will become. Infine, l'ultima domanda per Azam Ahmed è: come ha visto conciliarsi il lavoro di meccanico con quello di poeta? E questa è molto interessante, ascoltate. It's interesting, I asked the exact same question. I was like, do you see any relationship between sort of the work that you do and the poetry you write? E dice, apparentemente sembrano due mestieri che non hanno nulla a che fare tra di loro, perché fare il meccanico è un lavoro materiale, fisico e anche pericoloso. Ci si sporca e ci si taglia le mani col ferro e con l'acciaio. Comporre poesie è molto diverso. E la connessione tra i due lavori credo stia nel fatto che è molto onesto nel fare entrambi. Nell'aggiustare i motori ci mette la stessa rettitudine morale che mette nel comporre poesie. Questi due mestieri si influenzano reciprocamente. Lui, il poeta Turab, parla delle persone, sa di non essere solo, non è certo uno di quei luminari della poesia che vivono isolati in Torre d'Avorio a Kabul. Lui lavora per strada, a contatto con il metallo e con le persone, è un uomo semplice. La guerra si è trasformata in un mercato. Le teste sono state vendute, pesate come fossero cotone, e alla bilancia ci sono questi giudici che assaggiano il sangue e decidono il prezzo. Le stilettate di Matullah Turab, questa era la sua storia, il poeta meccanico che sfida il potere in Afghanistan e sfida anche i talebani che anni fa lo picchiarono quasi a morte dopo la pubblicazione di un suo libro di poesia. Era la seconda pagina di Nessun luogo è lontano. Adesso voltiamo ancora pagina, rientriamo in Europa, vi porto in Svizzera. In der Schweizer Kleinstadt Bremgarten soll die Bewegungsfreiheit von Asylbewerbern stark beschränkt werden. Das sehen Pläne der Landesregierung und der Stadt vor, wie Schweizer Medien berichteten. Demnach dürfen die Bewohner eines neu eingerichteten Asylbewerberheims 32 öffentliche Orte nicht betreten. Das Vorhaben sorgte bei Kirchen, Menschenrechtsgruppen. Perché in Svizzera, nella Confederazione, la politica e il dibattito si è scaldato non solo perché estate. Il dibattito, a dire il vero, non è proprio nuovo, però è tornato alla ribalta negli ultimi giorni. La questione è quella dei richiedenti asilo e degli spazi pubblici. Quello che ha fatto saltare sulla sedia alcuni politici di vari schieramenti e qualche associazione che difende i diritti umani è questo regolamento di alcuni comuni, in particolare quello di Bremgarten, che ha vietato ai richiedenti asilo l'accesso ad esempio alle piscine pubbliche o altri spazi, ad esempio come i cortili delle scuole. Che cosa sta accadendo in Svizzera? A che punto è questo dibattito? Marco Romano, consigliere nazionale, siede nel Parlamento federale per il Partito Popolare Democratico. Consigliere, buongiorno. Buongiorno, benvenuto a Nessun luogo è lontano. Buongiorno a voi. Allora, che cosa sta accadendo in Svizzera? Dicevo, non è un dibattito nuovo, ma a questo punto le organizzazioni sono insorte dicendo non si può impedire il diritto alla libertà di movimento di un richiedente asilo, però allo stesso tempo vi sono diritti dei residenti che sarebbero in qualche modo lesi. Ci riassuma la questione, se può. Ma l'avete detto bene voi in entrata, si tratta delle classiche discussioni politiche estive, la politica si surriscalda soprattutto quando non ci sono grandi temi e grandi dibattiti. In effetti però un problema la ricerca di alloggi per richiedenti l'asilo in Svizzera, soprattutto alla luce delle piccole comunità che conosciamo, i piccoli comuni di montagna, comunità dove a volte vivono 1.000-2.000 persone locali e si trovano nel proprio comune per un anno, due anni, magari una comunità di 100 richiedenti l'asilo. Quindi fondamentale riuscire ad organizzare una convivenza civile, a organizzare il tutto affinché si possa continuare a vivere in questa comunità come si viveva prima che arrivasse questo centro. Per questo che vengono determinate delle regole che in un solo caso hanno portato, era questo caso che lei ha citato di Bremgarten, sì, hanno portato a scaldarsi gli animi. Nel frattempo si è risolto tutto, si è regolato il tutto. Ecco, altri comuni però non hanno seguito questo esempio, in qualche modo insomma, è stata una testa d'ariete che però non ha avuto particolare fortuna anche dal punto di vista del consenso e della legittimazione politica. è stata anche mal compresa, è finita in mano dei giornalisti una direttiva nella sua prima fase di elaborazione, una direttiva mai entrata proprio oggi a Alpnach, proprio nella Svizzera centrale, in mezzo alle montagne, apre un nuovo centro di 100 richiedenti e proprio oggi presentando alla stampa questo nuovo centro, la Confederazione ha dato quelle che sono le regole di convivenza civile, si è ad esempio determinato che i richiedenti l'asilo non potranno utilizzare tutte le infrastrutture pubbliche in qualsiasi momento lo vogliano, come non può farlo nemmeno un normale cittadino svizzero, non può andare, credo anche in Italia, non può andare allo stadio per pretendere che lo stadio apra e giocare con i suoi amici a pallone all'interno dello stadio, quindi varranno le stesse regole che valgono per i cittadini svizzeri al fine di avere una convivenza civile. Non è facile, soprattutto in piccole comunità, improvvisamente trovarsi delle realtà che non si conoscono, con persone che devono in una qualche maniera passare la giornata, e anche per questo che si organizzano lavori di pubblica utilità che hanno grande successo. Purtroppo si parla sempre di quello che non ha successo e non si cita quanto funziona. E devo dire, consigliere, apprezzo il suo pragmatismo e il suo equilibrio nell'affrontare un tema, lei si occupa di questo soprattutto, no, nei suoi dossier, che molto spesso è strumentalizzato da una parte politica piuttosto che dall'altra, perché poi insomma fa scrivere gran titoloni sui giornali, no? La leva dei migranti è una delle formidabili leve politiche di questi tempi. Esatto, credo che sia un dibattito aperto in tutta Europa. In Svizzera abbiamo 30.000 richiedenti l'asilo in procedura, abbiamo avuto 30.000 richieste nel 2012, quelli in procedura sono molti di più, abbiamo parecchie migliaia di persone distribuite sul territorio, occorre, a dipendenza dalla regione in cui si trova, evidentemente in una città è più facile installare un centro richiedenti piuttosto che in un comune con 500 anime. Quello che bisogna trovare è una convivenza civile e soprattutto parlare anche degli esempi vincenti, che sono parecchi. Conosciamo da un anno il finanziamento da parte dello Stato di lavori di pubblica utilità e bisogna dire che sia da parte dei richiedenti che si mettono a disposizione, sia da parte delle autorità che ad esempio organizzano questi lavori, a mettere a posto sentieri, a pulire boschi, a impegnarsi diciamo per la comunità locale, c'è grande rispondenza da parte di entrambi, che sono progetti che funzionano e permettono anche a queste persone che sono in attesa di una decisione di passare le giornate svolgendo qualcosa, ricevendo in compenso qualcosina a livello finanziario per potersi magari concedere l'entrata in piscina, perché il grande scandalo era legato al fatto che non potessero entrare in piscina, ma mi pare evidente che come il cittadino svizzero paga un'entrata per la piscina, anche il richiedente l'asilo deve pagare l'entrata, no? Credo che questo valga in Svizzera come in tutta Europa, e non credo, è chiarissimo. Questa è la risposta, non credo che si possa ricevere rimproveri da Amnesty International su come vengono trattati i richiedenti l'asilo in Svizzera. Chiarissimo. Ultimissima domanda, la prego di essere sintetico perché abbiamo davvero un minuto prima di chiudere. Leggevo che una delle cose sollevate da Amnesty è il fatto che la diserzione non è più considerata motivo per richiedere asilo politico, però la diserzione riguarda soprattutto i tantissimi eritrei che fuggono da quella lunghissima leva obbligatoria. Non trova qualcosa che scricchioli su questo? Assolutamente no, perché come si presenta il tema, in Svizzera riceve asilo chi a causa della diserzione è perseguitato. Un normale disertore proveniente da un paese in cui la diserzione non porta a una persecuzione da parte dello Stato non ottiene asilo. Quindi bisogna leggere le leggi e non semplicemente strumentalizzare, come sempre più purtroppo fa Amnesty. Grazie allora al consigliere Marco Romano, consigliere nazionale per il Partito Popolare Democratico. Ho il tempo di leggere qualche sms, ce n'è uno ad esempio che, tornando su quella storia di poesia e meccanica, dice: il poeta ricorda lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta. Vabbè, un riferimento letterario. In chiusura, i saluti adesso. I saluti e i ringraziamenti doverosi a Mire Lucchetti, Isotta Scenna, che hanno scritto con me questa puntata, Gianmarco Ferronato, che le ha dato musica e ritmo, ovviamente a voi per essere stati all'ascolto. L'appuntamento è domani ore 13:15, quando ancora nessun luogo sarà lontano. Un saluto intanto da Giampaolo Musumeci.